ciao, ciao, Giassa. Come va? Sì, ho provato a accendere, mi stanno facendo, do un colpo per vedere se c'è qualcuno. Però con questa preparazione bisogna sempre tenere lo squelcio al massimo. Lo so, c'è sempre un po' di preparazione, però non è che sia così buona da poter collegare. Io sento il segnale anche sotto, già che stanno fischi, rumorini vari, chiamate, è abbastanza forte, quindi si sente come? Beh certo, dove sei tu sì, lì in alto dove sei tu, ma dove sono io sì, qualcosa si sente, ma sono basse e basse, non si capisce niente. Sentiamo sempre i tedeschi in FM, tutta la gente lì, loro la utilizzano sempre perché hanno meno disturbi. E tu, novità? Novità no, non ce ne sono, siamo sempre in attesa delle novità comunque, vediamo un po', questo mese se mi chiamano sono pazienza, non lo so, tanto, quello vuoi, sono in attesa, ecco. Cosa sta aspettando? Che ti chiama? Mi dovrebbe chiamare l'ospedale, dai. Perché ero stato operato 3 mesi fa, poi ho fatto la cura e adesso ho fatto già i preliminari, cioè per il ricovero, per il controllo, per vedere com'è andata la cura. Ah, ho capito. Ma c'è anche oggi, stavo guardando poco fa sul giornale, c'è una carenza, c'è un disastro che è veramente qualcosa di micidiale. Piano piano ce la stanno togliendo con la sanità, è una cosa veramente che non si crede. Purtroppo sì, è cosa vuoi che ti dica. Io ho fatto già le analisi, li ho fatti esattamente il 25 del mese scorso, praticamente un mese ad oggi. Mi avrebbero dovuto chiamare entro agosto, va bene, ancora ci sono questi ultimi giorni di agosto, ma non lo so se mi chiamano. Adesso ci vado io, domani ci vado io e sento un po' a che punto siamo. Una cosa triste, oggi c'è anche di quella questione solita del pronto soccorso, è una cosa veramente vergognosa, ma non c'è personale, non c'è più gente, hanno aspettato e poi non riesco neanche a trovarne perché proprio non ce ne sono. Che disastro ragazzi, povero che ci capita in mezzo. E poi lì con tutto il lavoro che c'è da fare in quella reparto, per carità, non fanno in tempo a dimettere uno che è letto e subito occupato da un altro paziente. Per cui, va bene, forse saranno in ferie, almeno qualche medico sicuramente in ferie, per ridurre, diciamo così, la prestazione medica, che cosa vi dica. Andiamo a vedere, aspettiamo ancora. Comunque domani ci vado direttamente in clinica e chiedo un po' come sono messo, insomma, a che livello siamo. Così è purtroppo. Anche questo ci vuole, già i problemi sono tanti, poi quando c'è anche una terapia della salute, è una cosa sempre in salita, perché tocca andare, tornare, aspettare risposte, tempi lunghi, ma ti dico di più che anche avendo le possibilità a pagamento, cioè, ci sono anche dei problemi lì, perché proprio ce ne sono pochi. Anche quelli che fanno pagamento adesso prendono l'abitudine di darti appuntamenti appena possono, perché il lavoro è troppo, sono troppo pochi e non ce la fanno più neanche loro. Lo so, purtroppo è così. I pazienti sono tanti, i medici sono pochi, per cui, però, ripeto, anche i posti letto sono scarsi, non è che sono tanti, ripeto. lo fanno in tempo a dimetterne uno che c'è già il posto nel letto già occupato dal prossimo paziente che è in arrivo. Io lo so perché mi è capitato quando io ero lì ricoverato, vedevo che lo facevano in tempo a preparare il letto, che c'era subito l'altro paziente pronto che rimpiazzava il malato precedente. Purtroppo è così, è quello che vuoi fare. Ma saremo a vedere che Dio ce la mandi buona. Così, eh? Ma adesso apriamo l'ospedale anche lì, dove c'è la sede dell'INPS. Li curano tutti i pazienti, qualunque cosa c'hai ti curano. Ti fanno entrare nell'ascensore e dopo un po' si apre. Ti curano, certo che ti curano, questo sì. No, diciamo che i medici già lavorano, già lavora molto il personale, anche gli infermieri che ci sono, la gente gentile, la verità, no? E quanto a quello non si può dire, trattano bene i pazienti. E poi naturalmente se c'è qualcuno che fa prepotente non rispondono, a dovere, è ovvio, però già sono seguiti, cioè quelli che sono ricoverati sono seguiti, altro che. Il discorso è sempre quello, il posto, quando, se non c'è posto non c'è niente da fare, se uno è fregato, se non c'è posto non c'è posto e basta. E d'altronde se non ci sono i posti letto come fanno a ricoverare le persone? Quelli che c'erano prima la regione già si sono impegnati a eliminarle il posti letto, tant'è vero che a Sassari adesso ne arrivano, c'hanno tutto il circondario, paesi, paesini, trick e track, gente che prima poteva essere ricoverata lì negli ospedali anche locali, anche se non erano attrezzati, ma quando è solo convalescenza va bene, si curano lo stesso. Adesso invece hanno chiuso tutto e quindi tutto in carico a Sassari. Hanno combinato un disastro veramente. Lo so, purtroppo è così. Cosa vuoi che dica? Speriamo che si mettano a posto, almeno per quanto riguarda la sanità, perché quella è una cosa importantissima. Non si può abbandonare la gente che ha necessità di essere curata così, solo perché magari ci sono problemi nella sanità. Ma dovrebbe essere anche il governo ad interessarsi un po' di più, cercare di incrementare il numero di medici e anche il numero di posti letto, perché se no non è possibile, guarda. Purtroppo non è così semplice, hai visto? Sì, al nord per disperazione hanno dovuto prendere quelli anche che non hanno fatto il tirocinio e lo stanno facendo fare lì direttamente sul posto di lavoro, perché non hanno proprio, non c'è più personale, proprio non ne hanno più, quindi pur di abbreviare i tempi li stanno prendendo in emergenza, quindi se così di lì che la sanità ha funzionato sempre bene, figuriamoci cosa possiamo avere noi che siamo sempre inguaiati per un motivo o per l'altro, siamo messi sempre peggio, quindi è un disastro su tutto, su tutta Italia, proprio piano combinato. Purtroppo sì, la situazione è messa male, non si può dire che è delle migliori, perché ripeto, va bene che l'Italia che è tutta messa male, e fatto la sanità è una delle tante cose che l'Italia appunto non riesce a sistemare, però quella è una delle cose principali, come si fa a non poter assistere a chi ha bisogno, non è possibile, ma va a vedere. Speriamo che mi chiamano subito, voglio morire. Io sto bene, apparentemente sto bene, poi bisogna vedere se effettivamente sto bene, da un controllo che mi verrà effettuato. Vabbè, staremo a vedere, no? È l'unica, è affidarsi alla provvidenza, oramai, è così, tocca sempre affidarsi al piano di sopra, perché se aspetti il piano sul piano terreno. Vabbè, non ho sentito neanche più nessuno, né Gianni, né neanche Marco. Tutti spariti, tutti in vacanza. Presente. Di nuovo a Marco. Ciao Marco. Sì, Marco, ci siamo sentiti all'inizio di questa settimana, ma poi tutto il resto del tempo, sono un mese senza sentire più nessuno, al di fuori di Marco e di Luigi, che ci siamo sentiti i primi giorni di questa settimana, ma poi niente di più. Adesso facciamo entrare a Marco. Avanti Marco, ciao. Io un saluto a tutti, dai, rimango all'ascolto perché ho iniziato adesso a mangiare, a dopo. Però una volta che sentiamo stai già scappando. Vabbè, dai, a dopo, devo mandibolare. A forza di mangiare questo sta diventando una cupa, vero? Ma Marco, a quest'ora, lui si sa, le 6:30, tante volte anche alle 7, e non è il pranzo. Lui ha abitudini differenti da quelli che abbiamo probabilmente tutti quanti. Sicuramente diverse dal mie, questo non ci sono dubbi, diverse abitudini. Io pranzo a quell'ora, va a luna, e poi verso le 8 la sera per la cena. Invece lui fa direttamente il pranzo alle 6:30, alle 7 la sera. E la cena non lo so, forse la farà a mezzanotte, questo lo so usato da lui. Ma cosa vuoi che ti dica di altra? Questa è la mia abitudine e lui va avanti così da sempre. Questione di cattive abitudini. Brecco. È registrato il brecco. Sì, è cattiva abitudine, ma l'hai detto tu, non l'ho detto io. Avanti brecco. Ecco, la buonasera, adesso per la ruota Luigi da questa parte ottava. Stavo Giulio, tanto che tu ci sei, che sei. Che mi fai sempre controllini, questo è un super stadio un po' controllato, fatto un po' di lavori alla radio, dai, dimmi se è tutto ok o se c'è qualcosa che non va. Attenzione, sto operando un M300 come microfono. Sì, io ti sento bene, lui va benissimo, intanto ti saluto. Sì, no, io ti sento benissimo, per cui non credo che ci siano problemi, assolutamente. Adesso sentiamo l'opinione di Gianfranco. Vai Gianfranco e Luigi. Sì, buonasera Luigi. Qua sei S9. La radio va bene, solo che è un po' rimbombante, solo, come se fosse un amplificato proprio rimbombato, però comprensibile, dato che parli anche piano, quindi si capisce senza problemi. Allora aspetta che, siccome non so come regolarlo adesso questo microfono, però gli metto uno spalmare normale, a me mi interessa sentire la radio con un microfono normale, non amplificato, mi interessa normale, questo perché lo stavo provando se funzionava. Comunque aspetta che riprendete, che cambio microfono, metto uno spalmare normale. Ok, infatti volevo dire io, dico, posso dimenticare. Cosa c'è da dire? Bene, le vacanze come sono andate da qua? Ero bene. Guarda, ho toccato il mare una volta sola, io ho fatto 2 settimane, ma non perché li abbia presi, me li hanno date loro, capito? Adesso c'è anche questa abitudine che ti mandano via loro e non tu, quindi vediamo un po' cosa succede domani rientro. Così, ho cercato di consumarle, ma io sono di quelli un po' che in agosto non le prendevano mai, assolutamente mai, e sono rimasto di questa opinione perché si è costretto a rimanere a casa perché fuori c'è una bolgia infernale, quindi non mi piace, capito? A me piace settembre, anche ottobre, oppure giugno, quando non c'è tutto questo traffico di persone, di schiamazzi, eccetera, eccetera. Ok, capito. No, tu l'hai visto una volta al mare, io invece non ho visto per niente, perché non ci vado proprio, non sopporto di stare lì sotto il sole, no, assolutamente, anche se tu mi dirai, ma c'è un ombrellone, eccetera, sì, d'accordo, ma è uguale per me, non mi va, preferisco quando devo andare al mare, se così si può dire che vai al mare, magari la sera vai a fare quattro passi ed è diverso, al fresco, ma durante la giornata col sole alto, no, ma non ci penso proprio, guarda, non ci penso proprio, quando ero giovane va bene, quando ero ragazzo problemi non ne avevo, anzi devo dire che anche da sposato ho fatto tanti anni di campeggio, ci stavo anche 3-4 mesi a stagione, ti puoi immaginare, ma adesso mai più, ma assolutamente no, io penso così. Vediamo se è rientrato Luigi col microfono che ha cambiato, avanti lui. Sì, Giulio, il microfono normale è palmare, dai. Niente, solo sai che cos'è Giulio, che io le prove le faccio quando ho fatto tutti i lavori, dovevo farlo prima per far sentire il cambiamento, solo che ormai ho fatto tutto, purtroppo devo fartelo sentire perché come cambiava di radio, dai, questo comunque ho fatto un po' di lavoretti, ripeto, quelle cosine che stavo dicendo io l'altro giorno e niente, dai, però un microfono normale adesso, un superstar, e questo è un superstar. Bene, ok, lui, sì, no, va bene, va benissimo, non c'è problema, va benissimo anche il microfono normale, anzi forse è più riposante anche ad ascoltarlo, perché con l'animo mava un po', c'era un po' di amplificazione, ma lo sappiamo, l'M300 così, io ce l'ho uguale, l'M300, se regola da dentro, già lo sai, ci sono due trimmer, uno per l'eco e uno per l'amplificazione. Andava bene, io direi lasciarlo come ce l'hai fatto sentire poc'anzi, perché per me andava bene, poi no, non so, poi naturalmente ognuno ha le sue preferenze anche per ascoltare una radio, tutto lì. Avanti Gianfra. Sì, in effetti, come dice Giulio, io pensavo fosse un problema di troppa amplificazione, in realtà è la tua voce che c'ha con la tonalità, capito? Ho commesso un errore pensando che fosse il microfono, e invece è la tua voce che è così molto poggiante, diciamo così, dai. Sì, no, ma a parte la voce, ma è l'apparato, hai capito? È anche l'apparato che c'è qualche, voglio dire, gli ho fatto qualche lavoretto di radio e di cose, ecco perché c'è anche gente un po'. Niente, no, ma questo penso che sia una pompa, e quando non è roba mia, io l'ho fatto per un amico. E niente, però se lo do per ascoltarmi più tre, come ha detto, questa radio fa benissimo, più che bene, perché ho visto, stavo ascoltando ieri, quando l'ho volta aperta, il mare laterale ed era perfetta, ma perfetta, veramente perfetta, bene centrata, funzionava una meraviglia, dai. Infatti di niente, ho fatto solamente questi lavoretti di problemini che c'aveva, però avevo tutto risolto questi problemini, fatto quel lavoro che ti stavo dicendo l'altro giorno, tutto fatto all'interno, ho tolto l'integrato, ho fatto quei lavoretti lì e tutto l'ha chiuso e niente, è a posto così Giulio, secondo me va più che bene, solo che il problema ti dicevo Giulio, te lo devi sentire prima di fare i lavori, il lavoro fatto non puoi dare più un parere. Vabbè, ma me lo posso immaginare perché ce l'ho anch'io, il Superstar 360 FM ce l'ho anch'io e so come funziona, so che vanno molto bene, però hanno una modulazione un pochino più squillante, almeno dipende naturalmente anche dalla voce di chi parla al microfono. Però so che per natura quel tipo di baracchino, ripeto il 360 però è FM, è sempre la Superstar, ha una voce un pochino più penetrante, più squillante, non così con quell'effetto cattedrale, che poi un effetto cattedrale è sopportabilissimo, va benissimo così o lui, per cui boh, vedi un po' tu, ma io ti consiglio di lasciarlo così com'è perché va bene. No, non c'è problema, insomma, è comprensibilissimo, non è quella applicazione che disturba nell'ascoltare, eccetera. No, no, va bene, a me piace, va bene così. Avanti, Giaffra. Sì, sì, confermo, ripeto, era un problema della voce, non dell'apparato, della cosa, perché è proprio una voce particolare. Comunque va bene, quindi se c'era qualche problema prima adesso dovrebbe essere risolta. Mi dici in che zona sei, Luigi? Ma io sono Ottava, qua Ottava sono. Ottava, quindi sulla 131, com'è che mi ascolti come segnale? Allora, qua aspetta che mettiamo gli occhiali, mettiamo un po' la luce. Allora prova, fa un passaggio, perché c'avevo lo Smith e quei numeri piccoli qua. È quasi 8-9, si muove un po', evidentemente siccome forse c'è anche molto vento, sta facendo oscillare un'antenna, quindi è spiegabile. Vedi un po' com'è? Allora tu sei 8, non arriva a Santiago 9, però la radio è Super 5, la tua, sei intorno ai 7, oscilli dai 7 a 8-8.5, dai, oscilli. E quindi va bene, dai. Di soliti 4 watt canonici. Poi l'antenna è anche abbastanza lontana, sarà una trentina di metri dalla stazione, quindi poi ripeto c'è anche molto vento, però fuori sotto si sente una propagazione micidiale, siamo a livello di 7-8 come segnale di propagazione. È positivo, no? Io Giulio lo so, 4 watt, l'ho messo 4 watt portante bianca, capito Giulio? Però c'ha picchi da, se gli ho fatto quel lavoretto che fa, perché questo c'ha il 1969 di coso, è come finale, c'ha il finale a 10 watt, capito Giulio? Però c'ha picchi 16, quasi 18, con 4 watt, dai picchi, però togliendoli, facendo quei lavoretti lì, capito? Sì, Giulio, no, va bene, va, io l'avevo capito che sta uscendo con una potenza abbastanza normalissima, 4 watt, scusate la tosse, e i picchi sono positivissimi perché da 9 circa che arrivi, appena scatto a 9, ma poi vai a finire a 9-10 quasi, 9-8, dai, ma con questo smitter, con questo switcher, però tieni presente che io sempre con l'antenna non ho la manta vai turbo, io ho l'antenna autocostruita tipo canna da pesca, per cui è un dipolo messo in verticale e ce l'ho nel terrazzo in un palo massimo alto, se no 1,20 m, non di più. Tu immaginati un davanzale di una finestra, ecco, è attaccato al davanzale così, e c'è un palo di 1,20 m, sicché fuoriesce dal livello del tetto, se no 30 cm, 40 cm, perché la parte bassa della mansarda, no? Perché non è l'antenna piazzata dove c'avevo prima la manta da turbo, no, assolutamente. Questa da quando io l'ho autocostruita, questa canna da pesca l'avevo messa lì, le terrazze, per poterla regolare per quanto riguarda le stazionarie, eccetera. Invece è andata bene al primo colpo perché ho rispettato le misure che ho letto sul computer e lì è già 2 anni e non l'ho più tolta. Però devo dire che funziona abbastanza bene, quando c'è preparazione riesco anche a parlare con la gente di fuori, per cui va bene così. E così lo stesso segnale di Gianfranco è uguale, circa 9 Gianfranco per te è di segnale, però la radio è ultra bella. Vai Gianfranco. Sì, tieni presente che potrei arrivare molto più forte, ma c'ho davanti con la collina di Monte Oro, che praticamente mi crea una tensione verso quelle zone lì, verso i punti, Ottava, eccetera, abbastanza forte. Quindi bisogna accontentarsi perlomeno verso quel versante, sempre, mentre invece sono molto più aperto verso stato lì. Comunque, l'importante è che poi, anche se i segnali sono bassi, noi perché utilizziamo la M, ma se utilizzassimo l'FM ci sentiremmo quasi sempre bene. Beh, uguale, non è quello il problema, sentirci ci sentiamo ugualmente, certo. No, ma volevo dire che io l'antenna non ce l'ho più all'altezza di quando avevo la manta, ma se no ti avrei potuto dare anche un numero di 10 sicuramente, come era prima l'antenna, perché tiene presente che quando avevo l'antenna manta, ma piazzata, avevo un'altezza superiore di almeno 6 metri da dove è adesso l'antenna, perché c'è tutta la pendenza del tetto, perché per la mantova era piazzata la parte di dietro, poi c'è tutta la pendenza del tetto, col 35% di inclinazione del tetto, e l'ho messa nel terrazzo. Praticamente tu immaginati il pavimento della mansarda, che fuoriesce anche al terrazzo, uguale, allo stesso livello, e lì c'è questo muretto che è un davanzale, praticamente, dove io mi posso affacciare, e attaccato a questo davanzale c'è questo pezzo di tubo da 1,20 m, che poi non è che esce fuori dal davanzale tutto 1,20 m, no, assolutamente no, o ne uscirà fuori se no 60 cm, grosso modo, una cosa del genere, perché vedi bene, è molto bassa l'antenna. Tra l'altro è un'antenna autocostruita che io ho tolto le misure dal computer, tipo Game Master, comunque, quel sistema lì ho adottato. Io so che anche tu hai quel tipo di antenna, ma tu hai quella originale, mentre io ho quella autocostruita, anche se la originale ce l'ho avuta anch'io, però l'ho regalata. E poi ho fatto una fesseria e poi invece me la sono autocostruita, tenendo in considerazione le misure che le ho tolto dal computer. Tutto io, Giotta. Avanti, Luigi. Giulio, ascolta, adesso proprio ti rubo qualche minuto, non di più. Se poi c'ho tutto incasinato, vorrete mettermi a posto dove stavo lavorando, dal banco, tutto incasinato. Ascolta, voglio fare, se è possibile, due controllini, provarlo un attimino in FM e poi mandare la tele, se è possibile, se no, se ce l'hai a portata di mano. Sì, possiamo andare anche in FM, però in questo momento, vabbè, possiamo andarci, dai. Vediamo, perché mi si è spento il sorpensimetro, e siccome sto andando adesso canalizzato, per andare in FM dovrei andare a sintonia continua per poi commutare l'FM, invece poco fa mi si è spento il frequenzimetro, ogni tanto si accende, ogni tanto si spegne, però possiamo farlo ugualmente, ma mi deve dare il tempo per poterci arrivare. Se non ci vai direttamente con Gianfranco non se ne parla più, io aspetto qua, dai, vai Gianfranco. Sì, non c'è problema. Quando vuoi. Ah, un passaggino adesso, fai la cortina, così vediamo se funziona bene in FM. Ok, dai, esecutivo. Thank you. rispetto ai 48.000, va bene anche in camion a casa. Il rapporto per me invece era che tu eri sotto di 10 precisi, Marco, lui addirittura di 40. Ah, io 10 ma hertz, no, kilohertz non può essere. Beh, diciamo tu eri 0,10 kilohertz e lui invece era meno 0,40 kilohertz. Gianfranco, però neanche io ti ascoltavo bene a te, attenzione, perché io non ho centrato a Marco, non ho centrato a te. Lo so, sì, però tieni presente che questo è proprio, se ti dico 27075.000 è preciso. Sì, le immagino, infatti, questo non lo sapevo neanche io, perché non è roba mia, io l'ho fatto solo, ho dato un po' di radio più bella, più corposa, più... sembra amplificata così il lavoretto che gli ho fatto, dal fatto dei lavoretti all'interno, che niente, ma poi tanto chi la doppera con un microfono da tavolo, con talme più tre a quanto ho capito, dai. Dovrebbe essere una bomba, dai, tanto è una persona che conoscete anche voi, conoscete voi. Sono tornato e avevo perso la frequenza, perché ripeto, non ho il frequenzimetro, ogni tanto si accende, ogni tanto si spegne, per cui mi stavo, volevo seguire l'FM come avevo spiegato poc'anzi, ma non è stato possibile perché avevo perso la frequenza. Ogni tanto si accende, ma basta che lo lasci un po' di tempo, mia adesso si riaccende, basta che lo lasci un po' di tempo senza usare questo baracchino, ma come facevo se non c'era nessuno con cui parlavo, col muro, per cui mi frega sempre, tutte le volte che lo abbandono per qualche giorno, così poi quando lo accendo c'è sempre il problema di frequenzimetro. Allora c'è qualche problemino che c'ha lui la radio. Sì, è un problema che ha la radio, infatti, ogni tanto si accende, ogni tanto si spegne, no, perché si crea una condensa all'interno, quando c'è questa condensa, allo stesso tempo, praticamente passa in contatto con i vari componenti che ci sono ed ecco come si spegne il frequenzimetro. Però quando va la riscalda proprio bene, allora rimane sempre fisso, acceso, funzionante. Ma ripeto, mi succede tutte le volte, basta che io lo lasci 3, 4, 5 giorni senza accenderlo, che mi fa questo difetto qua. Controlla, ma non c'è qualche... c'è qualche cosa che non... può essere anche qualche condensatore, ma di quelli piccolini sicuramente c'è, che alimenta il frequenzimetro, può essere anche, però vai a peccarlo qual è il condensatore, quello è il problema. Non credo sia qualche falso contatto che appunto che non porta la tensione giusta al frequenzimetro, anche lo sa, non lo so, comunque, pazienza, no, tanto è quello il discorso. Non si è preso su le frequenze, di mi stavo anche stancando, dopo 47 anni e mezzo di frequenza mi stavo anche stancando, perché ero un mese senza sentire nessuno, all'infuori di quei giorni che ci siamo sentiti con te, lui e con Marco, ma poi tutti gli altri, ero un mese senza sentire più nessuno. Positivo, ma sai perché questi giorni, perciò sto facendo lavori a casa, lavori da devo ancora pitturare, fare questo, dai, avevo un po' di apparati che mi hanno dato da sistemare, da fare, e sono un paio di settimane che mi sto dedicando a fare questi lavori, e ecco perché ce l'ho accendo per trovare le cose, vi sento, allora entro solo per questo, se no sono impegnato in altre cose, ho tante cose da fare qua in campagna che non te ne dico, Giulio, ma ma lavoro, c'ho il ponteggio che devo spostarmi la parte dietro, sto facendo dei lavori in giro alla casa e veramente un sacco, però c'è troppo caldo, con questo caldo che c'era il mese d'agosto sto speso lì e mi sono dato un po' qua a sistemare queste radio. Dai, mi è rimasto ancora un come si chiama? Un ranger, questo, quello ancora non sono riuscito a sistemarlo, però piano piano già ci riesco. Quello accende, funziona tutto, però piace importante cosa del muzzo, secondo i colpi che gli dai parte, a colpi parte, però io a colpi non lo devo fare andare, ci ho provato a controllare tutte le piste, toccarlo, farlo, senza dargli i colpi e non ci riesco a farlo andare, se gli do dei colpi però non riesco a individuare dov'è il punto che non fa male, avevo pensato a qualche pista a mezzo, ma non ci sono riuscito a trovarlo, dai, ancora non ce l'ho fatto. Ok, infatti deve essere qualche contatto, quando è così, quando gli dai il colpettino, che poi funziona di nuovo, sarà sicuramente una questione di qualche saldatura fredda, e che magari scuotendolo così e dandogli il colpettino va di nuovo in contatto, sarà per questo, va bene, purtroppo si guastano. Vabbè, questo ormai è una radio che ha 25-30 anni, per cui ne avrà anche ragione di riposarsi un pochino. Avanti, Giappa. Sì, magari qualche contatto, qualche saldatura, un po' così dopo tanti anni, è anche normale che lo facciano. Comunque, il problema sempre principale è quello di trovarli i fasti, soprattutto quando uno ci vede poco, come capita a me, e quindi oramai anch'io ci sto rinunciando, capito? E comunque, siccome ho capito che anche Luigi lì è in campagna, anche a quest'ora ho guardato fuori e ugualmente non si può lavorare, è veramente un periodo in cui lavorare fuori significa proprio bruciarsi, è una cosa micidiale veramente. Avanti Marco, vediamo un po' se hai finito di mangiare. Quasi, scusa che sto avvitando il mic. Ho messo quello generico, universale, perché è una timbrica anche migliore, invece quello originale 5005 è un po' vile, è piccolo, c'ha una capsuletta un po'... Quello è comodo solo perché i tasti up-down, no? E forse autosquelce mi pare, manco me lo ricordo. Sì, sto poco... devo mangiare lentamente, in poche parole Gianfra, dai, fate girare. Poco ma spesso, anzi quasi sempre. Riprendi Luigi. È positivo, dai. Io poi mi approfitto che ho dall'altra camera, c'ho il banco tutto lasciato tutto in disordine, devo ritirarmi e farmi un po' di... Questo me l'ho chiuso, è perfetto, adesso lo metto da parte e poi lo do al legittimo proprietario. Insomma, mi devo liberare tutto il coso dentro, tutto il coso del lavoro, tutti i fili, controfili, cacciavitti, cose che ci avevo smontando e facendo, saldando, devo un po' sistemare e pulire. Dai, io vi faccio un attimino di bianco, poi se vi ascolto ancora, perché ho fatto pulizia, dai, prego, e rientro nuovamente. Dai, fate buon prosieguo per il momento, io mi faccio un po' d'ordine qua in casa, dai, salutando a tutti, dai. Vai Giulio e niente, dai, io vado a farmi il lavoretto e poi non riprendo più, dai, Giulio e Marco, dai, vi saluto cordialmente. E poi al limite se vi ascolto ancora entro, dai. Ok, ciao Luigi, ciao, salutoni, allora riascoltarci presto, dai. Io sono sempre in attesa di quello che ti avevo detto, quando mi chiamano sarò assente per altri 3, 4, 5 giorni e dopodiché magari sarò presente, però prima mi dovrebbero chiamare, e per cui sono sempre qua, la sera sono sempre qua. Va bene, ciao Luigi di nuovo, salutoni, buon proseguimento lì da te a casa. Sì, ciao Luigi, buona serata. A stare sentirci. Tutto cosa volevo dire. Mamma mia. Ogni tanto quando fai una cosa ti sembra che ti si imballi il cervello, guarda. È una cosa micidiale. Succede, Giappa. Non succede solo a te, succede un po' a tutti, per cui anch'io delle volte ho in mente di dire qualcosa e non mi viene magari la parola giusta, l'aggettivo giusto o l'argomento di discussione che voglio trattare in quel momento, magari che mi sfugge, ma succede un po' a tutti, suppongo, perché abbiamo altri pensieri anche per la mente, non è solamente quello della radio, abbiamo tanti altri pensieri. Vabbè, pazienza, dai. Allora Marco, hai smesso di mangiare? Guarda che ingrassi troppo, eh? No, piccolezze sono, ma sento che balla la capsula qua stranamente. Come mai? Prima era fissa, deve essere che si è assottigliata la spugnetta lì un po'. Si era trapita e... E balla. Ho notato anche che appunto, va bene, abbiamo già parlato, per non ripetermi, niente, neanche PMR, anche su 23 spariti tutti quanti. Come ho detto l'altra volta, è destino comunque, dai. Alla fine si accantoneranno queste cose qua. Naturalmente io per i social sapete che sono non sociale, antisocial, non, sono una cionfra anche lì, troppo casino, messaggi continui, non mi piace. Anzi ho tolto pure WhatsApp perché tanto non la stavo praticamente usando. Ok, no, WhatsApp io già lo utilizzo praticamente quasi tutti i giorni, al di fuori di quando mio fratello è a riposo, se no quando è al lavoro, soprattutto quando fa i turni di notte, le faccio compagnia, anche se la tardi, la notte, per cui tanto per alleggerirmi un pochino il peso del lavoro. Purtroppo è così, no, WhatsApp lo tengo perché quello fa sempre comodo, tanto non mi ricordo, mi costa, non è un problema. Ma tengo anche baracchino se per quello, e quel momento non ce ne sono. Se poi non c'è nessuno, pazienza, vuol dire rimarrà spento. Tanto se lo tolgo dal tavolino non me lo metto, devo mettere dentro un cassetto, dentro un qualcosa. È sempre facile per prendere, tanto male che rimanga lì. È al limite, l'unica cosa che dovrò fare è di tanto spoverato, niente di più, ma per il resto che problemi ci sono. Lo lascio dove e quando c'è qualcuno ci parlo, se non c'è nessuno pazienza, vuol dire riposerà anche il baracchino. Avanti Gianfra. Cosa devo dire io allora? Che per passare il tempo ogni tanto mi devo ascoltare le messe qua dei paesi circostanti sui 40-41 MHz. Quindi figurati in che stato siamo. 40-41 MHz? Sì, c'è praticamente un prodotto. Un prodotto, no? Che praticamente danno alle persone anziane, praticamente una radiolina, c'è una radiolina soprattutto per quelli che non possono andare a messa nei piccoli paesi, adesso non so se sia Uri, Usini, quelle zone lì, e i preti mettono una specie di mini ground plane lì sul campanile, e c'è questo prodotto che tra l'altro è costosissimo per quello che fa, no? Un trasmettitore a 41 e a determinate ore in cui c'è la messa la trasmettono, così chi è a casa può ascoltarlo e le senti in FM tra i 40 e 41 mega. Mamma mia, che cosa allucinante, sto provando anche un ricevitore. Passa il tempo, vedi un po' i segnali a quale frequenza come sono. Cioè non bastava Radio Maria sui 107 o quant'è megahertz in FM, pure così hanno fatto. E che portata ha il trasmettitore? Quanto può essere? Poca roba, non hanno grandi potenze, giusto lì per il paese, quindi ti puoi immaginare. Però siccome io sono in zona favorevole ho anche le antenne abbastanza grandi anche per quella frequenza, riesco a riceverli, non sono in linea d'aria molto distante, sono una decina di chilometri al massimo, che adesso, anche quest'ora forse, forse adesso ormai è già un po' tardi, ma intorno alle 6:30, quindi la messa dall'organizzazione alle 6:30 e finisce alle 19:30. Ogni tanto c'è qualche messa di morto anche, e quindi passa il tempo così. Caspita, ma se avessi avuto ancora il PRC, un PRC 10, no, non te lo dico cosa avrei fatto, non te lo dico, meglio non te lo dico. Vai Giulio. Beh, 40 MHz, 41, lì io non ci posso arrivare, per cui non lo potrò mai sentire, anche ammesso che qui arrivi questa trasmissione che mi stai dicendo, Giotto, ma qui io massimo arrivo a 30 MHz, sì, no, non è possibile, sì, vabbè, ripeto, no. 40 MHz dove lo trovi, su quale apparecchio lo utilizzi tu? Beh, ma Gianfranco, beh, sarà ricevitore oppure anche, per esempio, l'857 copriva da, non so, un megahertz, non so quant'era, fino ai 56 megahertz, continuo e senza buchi, quindi 43 sentivo, eccetera. Vai Gianfranco. Guarda, Giulio, tutti i nostri apparati, tieni presente che noi possiamo operare anche sui 50 megahertz, quindi come ricevitore tutti gli apparati che ho vanno dai 0 a almeno fino ai 60, alcuni arrivano, fanno tutto proprio, quindi oramai quasi tutti gli apparati amatoriali hanno 50 mega, quindi automaticamente perlomeno come ricevitore hanno quello, hanno anche quelle frequenze lì, no? Non sono bloccato, perché tanto cosa blocchi a fare, come se temi adesso già non c'è pericolo che ascolti cose strane e niente, quindi è normale che si possa anche andare su quelle frequenze. Marco, io l'ho già capito cosa vuoi fare, io sto aspettando il momento che lo utilizzino, magari se lo dimenticano acceso, magari vanno nel confessionale col microfono anche, vabbè. Sì, comunque sì, a parte tutto mi ricordo che riceveva da 0,1 kHz ai 56, no, l'857, però con la modifica trasmetteva anche in continuo da grosso modo 1 MHz ai 56, cioè era bello larghetto di panda lì, perché aveva 50, eccetera. Sì, anche con quello veniva bene, mi mettevi 100 watt. Si sarebbero fatti i segni della croce di anziani. Sì, vediamo un po', ti dico anche queste radioline sono intorno ai non ce l'ho sotto mano, comunque tra i 40 e i 41, Neia. Ma si potrebbe sentire anche di peggio, metti che il prete, perché ormai sai, i preti non è che siano così, diciamo, fedeli alla, che devono rimanere belli puri, no? Magari senti che si chiama qualche donna a pagamento, la porta in segreteria, il microfono acceso e tutto il paese sente tutto. Giulio, sì, ci sei ancora? Sì, che ci sono. Caspita. La radio che ho io, sai, è quasi 40, ho già fa, e arriva solo a 30, a me, dunque oltre non ci posso andare, è vecchia, una radio vecchia, avrà 30 anni questa radio di vita. Forse su una radio normale, su una radiolina normale, usando magari, che so io, le onde lunghe, può darsi che riesco a sintonizzare, non lo so, la verità. Di solito a che ora c'è questa messa che danno lì? In orario è sempre lo stesso, l'orario dove è messo. adesso aspetta che provo un attimino, tanto facendo l'altro, se mi ricordo com'era, un attimo la cerco. Ok. Sì, no, siccome io ho una radio ricevitore che ha esattamente 8 bande, per cui può essere che riesco ad agganciarla con quella, sempre che questa trasmissione che fanno, che è visibile degli infatti, perché c'è anche quello da considerare, per cui ad esempio questa, adesso io lo sto leggendo, questo fa da 76 a 108, poi fa da 525 sino a 1605, vabbè, queste sono le onde miglia, poi fa da 595 e poi fa da 21,85 e poi ha 4 canali TV 4 e 5, dovrebbe funzionare anche lì, non ho mai provato, ma dovrebbe funzionare. Questa è una radio normale, un potassino normale, niente di più. Sì, infatti, vediamo se ho premuto quello giusto. Mi sto proprio veramente andando in palla perché non mi ricordo di CDR veramente. Aspetta che lo vuoi ritrasmettere. Ah, prima castità, il voto di castità, non mi veniva il termine. Comunque ho scoperto che anche questo scanner ci va, non lo sapevo mica. Io credo ricevesse la 27 perché era, lo sapevo. Poi da 66 a 88, poi c'è becca anche 50 e 40, tutto. Da 25 agli 88 mi pare. Vabbè, quello sì, ma quello ce l'ho anche nel PNR io, che parte dalla 65, se ricordo bene, sino a 100, 135, una cosa del genere. Poi parte da 400, sì, da 400, a parte anche 88, anche, no? Quello si sa, cioè la radio, la frequenza. Poi ce l'ha da 400 sino a 520, ma sono altre frequenze, questo è PMR, però. Comunque qua non arriverebbe, a meno che non sia un paese tipo Osilo, perché non ho antenna esterna, poi sui 40 MHz non ho antenne per quelle frequenze. Comunque vabbè, adesso so che c'è anche quella banda, buona sapersi. Vediamo se si sente qualcosa, per curiosità mi. Beh certo, la curiosità è che ti porta a seguire certe cose, ammesso che ci si riesca ad arrivarci, però tutto è buono sperimentare, no? Uno che ha la passione per la radio, sente sperimenti, li fa, perché no? Se è possibile sentire e ascoltare, va bene, se no pazienza. Ma poi io lo scatto che io fa da, mi sembra che parte da 300 fino a 1300 MHz, sicché anche quello non, i 40 MHz non li abbraccia, insomma, ecco. Comunque anche questo è a salti, a fette di frequenza, perché è uniden, tipico degli uniden, no? Invece quelli tipo ICR5, ICOM, quelli AESU, no, quello che avevo prima era da 01 a 1003, però era una fogna, prendeva disturbi dalle radio in modo terribile, era quasi inutilizzabile in certe bande. No, adesso che mi è venuto in mente, sai dove lo potete prendere? Io ho delle radio vintage, no? Di quelle di una volta valvolare, ne ho 6, ne ho in tutto, tutte funzionante, e ci sono magari le onde lunghe che potrebbe anche abbracciare i 40 mega, non lo so, la verità, bisogna che dia una controllatina, ma adesso non è che mi metto a controllare quello, però dico, volendo potrei fare quel tentativo, ma suppongo che non riuscissi nemmeno con quella radio lì, questa radio valvolare, che di cui io ne ho anche tre, che c'è il giradischi sopra, c'è lo sportello che si apre e c'è il giradischi anche. E infatti me ne voglio liberare, un giorno o l'altro prendo e me li porto in magazzino. benzina, me li porto e mi metto su nel soffà qua, non se ne parla più, perché mi voglio liberare un pochino da una strada qua, non sono troppe cose, troppe radio, troppe baracchine, voglio liberare un po' di cose alla Marco, perché tanto riuscire a tenermi conservati è come non averli, guarda, al limite li prendo, il posto dove metterli ce li ho, me li porto nella ex famiglia mia, mi metto su un soffalco che ho costruito, chiuso con sportelli eccetera, e rimangono lì e ciccia. Va bene, vediamo se è rientrato Gianfranco. Purtroppo faccio innesco quando, perché evidentemente le antenne sono troppo vicine, perché c'è il dipolo vicino alla Game Master e quindi riesce un po' a interferire, il segnale è molto basso. Ma la frequenza effettiva poi l'hai scoperta? 40-340 ad esempio, poi ce ne sono tante altre, sono almeno tre quelle che dicevo, però tieni presente che sono già le 7:20, quindi non so se a quest'ora la messa c'è ancora. No, ma la messa che ora è? Io manco lo so, 6:30 più o meno, Giulio. Ehi, allora chiedi, capita, ti sei rivolto a uno che è proprio informato su queste cose? No, ma suppongo che intorno alle 7, almeno penso, la messa sarà quell'ora, non lo so, e non so nemmeno se è l'ultima o addirittura l'ultima, al limite ce ne sarà uno alle 8, che ne so, boh. Non lo so, devi chiedere a chi frequenta molto la chiesa, io non la frequento, anche se non ho niente contro la chiesa, è chiaro, assolutamente no, anzi la difendo anche, perché è un patrimonio del mondo, perché la chiesa c'è dappertutto in tutto il mondo, è un patrimonio del mondo, casomai potrei dire qualcosa contro chi la gestisce, ma non me ne frega niente di parlare di loro, di queste cose adesso, assolutamente. Sì, comunque è di lì per dire questo, dal discorso di cosa ascoltare al siamo finiti anche di lì. Però adesso ripeto, siccome sto lavorando col dipolo, perché la Game Master la sto usando qua, non riesco a riceverle, non so se sia una questione d'orario o di che cosa. Comunque sono in FM, perché sono dei piccoli trasmettitori, hanno un'antenna esterna e insomma, quelle cose lì, tutto lì. E il problema è se non si riesce a sentire altro al di fuori di queste cose, perché è un po' dappertutto, è tutto digitalizzato. Purtroppo, finita la pacchia. Ma guarda che è finita qua, nel senso che chi ad esempio qua a fianco, quello che sentivi prima, quello raggio, è un ricevitore che ho da poco, è un UIDEN, ed è digitale anche, quindi riceve anche le comunicazioni digitali, ma quelle che ricevo sono dalla Liguria, da quelle zone lì, perché tra l'altro batte anche parecchio. E qua non c'è niente, praticamente siamo proprio noi che non li usiamo, capito? Cosa mi sfugge? Comunque vabbè, adesso che mi ha messo curiosità, un giorno porto l'antenna per i 50 MHz, no? Oddio, va allungata di parecchio. Vabbè, poi faccio i calcoli. Vado in una zona alta, all'orario apposito, voglio provare con questo ricevitore se qualcosa arriva da. Così mi tolgo la curiosità. Sì, 50, perché io poi mi ero fatto per. È presente la Proxel Pro X1, quella con quel cavetto con lo spinotto in base alle bande, no? Io ho preso, adesso non so se si può dire qua, vabbè, diciamo che per andare su una frequenza leggermente fuori dalle bande amatoriali, cioè lo stub, no, non potevi coprirla quella frequenza, tantomeno in trasmissione. E allora ho preso un grosso mammut e gli ho aggiunto un pezzo di stilo preso da un'altra antenna similare, cioè gliel'ho allungata a dismisura, in macchina vedevi questa cosa alta 2,5 metri che oscillava, però sono riuscito poi nell'intento, diciamo, ad accordarla almeno per sentir bene, e farò la stessa cosa per i 40 MHz. Ma puoi utilizzare anche, cioè io per ascoltarli utilizzo un'antenna da 27, non è che mi metto a utilizzare un'antenna di 50, che neanche ho tra l'altro, perché proprio non ne faccio niente. Beh, ma sai, un'antenna accordata magari qualcosa riesci a sentire meglio, a tirare fuori un segnale basso, ma anche lasciata per i 50, grosso modo, anche perché, cioè, facendo i calcoli, vabbè, un macello, diciamo che là c'era mezzo megahertz di differenza. E lì sono 10 MHz di differenza, quindi non lo so. Vabbè, non è un problema, io qualcosa sentirò da cerca, già capito. Ehi, quando spazzo di vita 40 e 41 ci si. Tieni presente che la trasmissione per sua natura c'ha molte pause, nel senso che magari senti rumori del microfono quando stanno in silenzio durante le pause, quindi devi cercare proprio la portante e poi senti sottofondi, no? Quindi devi stare un po' attento. Eia. E una volta c'erano anche i baby monitor, non mi ricordo se in principio erano sui canali alfa e poi sui 29.7, però tuttora qualcosa si sente ancora come baby monitor, poi c'è la roba magari fuori standard, non omologata, sicuramente cinese. Quello non è probabile. Guarda, quando c'è molta propagazione da fuori, presumibilmente dalla Germania, da quelle parti lì, no? Sentivano parecchie trasmissioni professionali, in 26 ad esempio, quindi segnali digitali, cerca persone, telecomandi, ti tenere altri una metta. Insomma, mi sono rifatto un po' tutte le bande per cercare di capire come sono allocati i servizi. Disgraziatamente ti potrei dire quelli francesi, quelli spagnoli, eccetera, ma di quelli italiani poco e niente, perché proprio è una cosa strana. Cioè, la usano veramente poco la radio. La Spagna hanno tutta oramai la banda 151, 154 e tutta APCO P25, e quindi a volte si sentono in chiaro, a volte fortemente criptata perché è dalla Guardia Civile. Ah, avevo letto, sì, qualcosa, APCO P25, Stavo leggendo qualche recensione su eam.net di quel ricevitore Uniden da 1300 euro che era uscito un anno fa, quant'è, 2 anni fa, il primo da tavolo, diciamo, no? E molti l'hanno bastonato scrivendo più che altro che aveva una sensibilità bassa. Era poco sensibile, sordomi in alcune bande, poi chissà se è vero, se gli è capitato l'esemplare fallato, Io dieci anni fa, avevo costruito la radio galena, no? Avevo costruito, e addirittura la facevo funzionare con l'antenna del baracchino, la facevo funzionare, e prendevo tre stazioni, prendevo la RAI e anche una stazione straniera francese si sentiva, ma poi fino a un paio di anni fa qualcuno cosa si sentiva, adesso non si sente più niente, perché in AM, perché era in AM questo radio galera, no? Ormai non c'è più niente, perlomeno in onde medie non c'è più niente, o già fa. Però funzionava che era una meraviglia, soprattutto quando la mettevo nell'amplificatore, no? Siccome io qui a casa ho un organo, e ho l'ingresso per poter amplificare altri strumenti, eccetera, e infilavo il filo di dentro con lo sinotto, chiaramente, e funzionava come una radio normalissimo, senza bisogno nemmeno dell'antenna, mentre invece quando non c'era l'antenna, usavo l'antenna del baracchino e con un pezzetto di filo che facesse da filo di terra e basta, niente di più. Ma funzionava che era una meraviglia, eh? Ma adesso ormai in onde medie trasmissioni non ce ne sono più, perlomeno trasmissioni della RAI, e non ho, e dunque non ho, allora l'ho smontato e ce li ho sempre i pezzi, i componenti ce li ho sempre. Volevo tentare di farne uno in FM, ma è un po' più complesso per riuscire ad ottenere una radio galera in FM, è un po' più complesso e non ho uno schema, non ho niente. Quindi, considerato che avevo centinaia e centinaia di riviste, avevo di elettronica, anche addirittura del 1954, si può immaginare, fino al giorno d'oggi quasi, e poi mi serviva il posto e ho buttato via tutto. Ho riempito il cassone della Mondezza, quei cassoni grandi, col tappo verde, li ho riempiti di giornali, di riviste. Mi è dispiaciuto, però non lo potevo fare diversamente, perché mi prendeva troppo posto e il posto mi occorreva, allora ho eliminato tutti questi giornali. Peccato, comunque, va bene così. Avanti, Giafra. Sì, riguardo quello che sta dicendo Marco poco fa, molti si lamentano, però non pensano che man mano che cambi frequenze, se non c'è l'antenna, ovviamente il segnale cala, quindi non possono dire, anche mettendo un'antenna Riscone ad esempio, a larga banda, non puoi pretendere, secondo dove si dà, avere un guadagno tale da poter coprire bene tutte le frequenze. E al limite puoi mettere un'antenna bibanda e già inizi ad avere qualche cosina in più per uno scanner, però non puoi andare a prescindere a dire che non è sensibile o questo o quell'altro. Io sto usando, ripeto, questo Uniden piccolino in portatile, cioè piccolino per modo di dire, perché è abbastanza impegnativo, non è come i portatili classici, però vedo che è sensibilissimo, riceve anche le stazioni del continente e quindi, cioè, va bene. Non è che costa, purtroppo costa caro, considerato quello, l'uso che se ne fa, capito? Perché lo puoi usare solo quando c'è preparazione, in parole povere, per ascoltarti quello che dicono fuori in continente, ma usarlo di qua, boh, mi sembra veramente prematuro. Mentre per Giulio sì, è vero, hanno tolto da parecchio ormai tutte le stazioni in onde medie, ci sono sì quelle della RAI, però trasmettono ormai da fuori, e anche quella che c'avevamo noi qua di Radio Sardegna, che era di lì verso la zona lì, adesso non da tanti anni tutto, anche il Calix devono mettere il sistema indietro, come tanto per cambiare rispetto all'Europa. Noi parliamo tanto d'Europa, poi siamo arretrati che neanche ce ne rendiamo conto. Stanno cercando che poi ci tolgano questo impiazzo di Radio FM, che veramente fanno certi studi micidiali. Io l'ho potuta ascoltare, è una macchina che ce l'aveva, devo dire che è perfetta. Peccato che siamo tutti francesi, l'italiano non c'è neanche una, roba davanti. Ciao Antonello, domanda per Gianfranco e poi domanda per Giulio. Gianfranco, appunto, te lo volevo chiedere da prima, ma questa radio FM sugli 88-108, cioè la frequenza verrà convertita in digitale o come sarà il futuro della radio FM? Io so già che esistono queste radio DAB, no? Le vende anche Lidl, no? Le radio ricevitori DAB, no? Radioline, però non so se l'FM farà tipo il digitale terrestre, no? Magari molti più canali, digitale, magari meno disturbi, nulla ne sai. No, dunque, te lo stavo dicendo prima, adesso c'è già, sperando che, ripeto, ci sia un po' di copertura tra un paio di giorni, te lo potrò dire, perché mi sta arrivando un convertitore, ci sarà la DAB, Digital Audio Broadcasting, che è praticamente la radio in digitale, con un suo protocollo, eccetera, eccetera. Tra l'altro, se da quest'anno tu ti cambi la macchina, se sono obbligati a metterti una radio con il sistema digitale DAB, perché l'FM che conosciamo, stereo, eccetera, eccetera, o la, per intenderci, 88-108, dovrà sparire. Poi cosa ci mettano non ho idea. Il DAB attualmente opera tra i 170 178 giù di lì fino ai 200 MHz, quindi copre quella fetta di frequenza tan digitale, praticamente ci sono tanti di quei canali che c'è da farne paura. Ti ripeto, qua per quello che ho potuto ascoltare io si ricevono una ventina, 30, non so quanti siano, stazioni francesi per adesso, poi stiamo a vedere cosa ne esce fuori. Eia. Antonello, vieni avanti, che non passavi comunque, prima non ti sentivo, capivo che eri tu, ma non si capiva né l'uno né l'altro. Non ho capito nulla di quello che ha detto lui, guarda, la verità, talmente c'ha di quei rumori, cosa del genere, mi serve che sia dentro, non ti posso dire. Vado a trovare bene. Possibile, casa, tutti quei rumori, non è possibile, casa, non ho mai sentito una cosa del genere, una situazione così, hai capito? Non lo so. Antonè, ma anche tu, si sente alla TV il cane che scorreggia, sei troppo amplificato, è una cosa, devo abbassare il volume, mi Antonè. Vai Gianfranco, per la replica. Aspetta, adesso va bene, guarda, ho abbassato anche addirittura i watt, addirittura, sono lato dell'apparecchio, quindi va bene adesso, tutto a posto, sì. E molto meglio, più riposante, poi capibilissima, ma quando sente la TV troppo è troppo. Cioè per un salotto entro Sassari va benissimo. Vai Gianfranco. Io infatti tutto l'altro passaggio non ho sentito perché era qualcosa di spaventoso, proprio non si capiva una mazza. Tutto lì. Niente. Così, mi capito, come adesso ci sarà questo DAB e vediamo un po' cosa, se la situazione migliora. No, aspetta, però quello che volevo dire io, queste frequenze DAB affiancheranno nuove frequenze su 88-108 in digitale? Oppure si trasferirà tutto in zona DAB oppure tutto zona 88-108? No, tutto in VHF, quindi tutto 170-78, quello che è 200, quindi sarà tutto lì l'ambaradan del DAB. Poi che fine fa 88-108, dunque che a regime è da vedere, perché già in certe parti d'Europa non esiste più, capito? Quindi anche noi presumo lo abbandoneremo. Ma dimmi una cosa, scusa un attimo, ma Ma adesso si dice, cioè si parla che la frequenza della televisione la passano come frequenza dei telefonini. Ma allora in quel caso lì bisogna cambiare oltre al televisore, al limite ci sarà un ricevitore fatto appositamente, eccetera, per poter prendere sempre la trasmissione televisiva. Anche il telefonino bisogna cambiare in quel caso lì. E poi tra l'altro c'è gente che è contrario, perché dicono che la frequenza della TV traslocata nella frequenza del telefonino dice che è nociva per le radiazioni. Tu niente ne sai, Gianfra. Guarda, quella lì è la 700 Omega, credo la banda 700 che si sono allocati un paio di canali che saranno dedicati alla nuova tecnologia che è chiamata la 5G, quindi la banda larga, essendo su una frequenza praticamente ancora UHF, riesce a, dovrebbe da quello che dicono loro, entrare con maggior penetrazione sulle abitazioni, eccetera, fornendo un servizio molto veloce, ma soprattutto aumentando la connettività veicolare, quindi delle automobili, di quelle cose lì, tutta una serie di servizi collegati sempre a internet e alla mobilità. Comunque mi dico, sono cose un po' particolari. Il televisore non è da cambiare, perché essendo in realtà un semplice ricevitore non farà altro che saltare quel canale, oppure al limite di usufruire dei servizi di quei canali. Altre cose poi, sì, se ti prendi un telefonino che ha anche 700, dici probabilmente cioè ci vuole, ma sono telefonini con una nuova tecnologia anche, quindi per adesso io, perlomeno io, non ne ho visto, poi indubbiamente fanno in fretta a farli, ecco. Però è dedicata soprattutto ai sistemi mobili, ai sistemi di connettività tra la velocità via radio sempre, quindi gamma 700 MHz. Ok, ho capito. Allora in questo caso qua uno non è costretto a cambiare per forza il telefonino, può continuare a utilizzare il telefonino che se ne trova, anche quando ci sarà questo cambiamento di frequenza. A meno che uno non voglia, diciamo così, rinnovare il telefono che dove c'è appunto anche quella frequenza lì. Ho capito, e vabbè, comunque non sanno loro che cosa inventare. A me sinceramente parlando mi andrebbe bene come la televisione, è utile stare lì a non prendere scatto, a cambiare frequenza per far spendere un sacco di soldi alla gente. Tu immaginati, io ho televisioni qui piazzate a casa, ne ho 5, e in quel caso lì cosa dovrei fare? Cambiare 5 televisioni? È pazzesco, ci vuole una banca di soldi. Vabbè, faranno un ricevitore adatto, come hanno fatto per il digitale terrestre, e può darsi magari si recupera il televisore in quella maniera. Ma comunque staremo a vedere. Vai Marco. E ogni tanto per spillarci soldi cambiano codec di trasmissione, costruire il DVB-T2, così si chiama. E noi abbiamo televisori, pensa che i nostri a schermo piatto sono LCD ancora, anche perché noi cambiamo televisore solo quando si sfascia, cioè quando non è più aggiustabile, cioè noi li distruggiamo, li consumiamo prima di cambiare, non è che seguiamo le mode, perché i soldi non è che possiamo stare dietro la tecnologia, se no saremmo al collasso, alla rovina, in rovina andremo, capito? Forse Giulio si riferiva alle frequenze 5G, perché già i soliti notti si danno il panico, le radiazioni, frequenze, no, come facevamo col 3G, stessa storia, col 4G, stessa storia, col 5G, stessa storia, in più ci sono frequenze mi pare un po' più in alte, in ballo, alcune, no? Avevo letto una cosa che comunque sia già per il 4G, in Europa ci sono valori, in Italia valori molto più bassi, no? Valori limite, in America roba di 10 volte tanto. almeno per il 4G attuale c'erano, cioè valori molto molto più alti, perciò la gente teme che magari possano fare questo 5G con frequenze più alte, adesso non mi ricordo quali sono, ma siamo intorno ai giga, 2-3 giga, non me lo ricordo adesso. Se in più tendono piano piano a alzare i valori, cioè troppa potenza su quelle frequenze, poi magari non ti fa niente lo stesso, ma voglialo spiegare ai complottisti. No, non è una questione di complottismo, è una questione che gli operatori telefonici e le grandi società che investono miliardi di miliardi in impianti di trasmissione non ti diranno mai che fa male, che fa la zappa sui piedi. Quindi si potrebbe dire magari forse non fanno male, di certo non fanno bene, ecco, si potrebbe dire così. Di sicuro è che molta gente, tra cui io, quando tiene il telefono vicino alla testa un pochino, dopo un po' c'è il capogiro, ecco. Questo perché scaldano molto, producono calore, il calore è pericoloso. Basta dire ad esempio dal Tetra, il Tetra sono le radio che utilizza la polizia in Italia e all'estero, e sono molto criticate, c'era stata addirittura la proposta in Inghilterra di proprio di toglierle, perché c'erano già delle cause in corso. Tu se vedi i bobiti, diciamo inglesi, quelli che hanno quel berretto strano, la radio ce l'hanno proprio attaccata diciamo al torace, vicinissima alla testa, quindi quando trasmettono hanno qualche problema. Tieni presente che poi il Tetra spesso deve dare anche l'ok al canale di controllo, quindi molto spesso c'è una trasmissione molto molto superiore a quella che può essere un DMR classico. Hanno accertato che bene assolutamente non fa, consigliano una distanza da un metro ai due metri, anche per quando si parla di apparati veicolari. Giulio, io c'ho un ripetitore a 30 metri, nemmeno, ce l'ho tutto qua di fronte a me. Quando diventerà 5G, se cominciano a cadermi i capelli ti avviso. Vai Antonello, no, vai bene, vai Giulio. Io qui in zona ne ho due di fronte, dalla parte della strada qua. Uno un po' più lontano, ma quello è verso la 131, per cui si può immaginare, io ne ho due, tre in tutto nel ripetitore del telefono, due sono distanti, suppongo quanto possono essere, esagerando 300 metri da dove abito io, per cui insomma, diciamo come stava dicendo Gianfranco, se non fanno male ma non fanno nemmeno bene, questo è scontatissimo, sappiamo che le radiazioni ci sono un po' dappertutto, ci sono anche nell'antenna del baracchino, se per quello sarà una cosa minimissima, però c'è. E a proposito di quello, una volta noi è venuto ad abitare qualche annetto fa una persona che abita 20 metri da dove abito io, però di fronte o manco, e questo è venuto a vedere, a chiedere di chi era con l'antenna. Beh, a te cosa ti interessa di chi è con l'antenna? La mia, perché? Che cosa vuoi? È perché qua adesso mi devo informare, lui stava appena arrivato e aveva preso una casa, una pistola, mi devo informare per vedere se quello lì fanno male delle radiazioni, ma informati, chi se ne frega, fa la cosa, non ci venire più qua, no? Anzi, quando mi vedi non mi guardare nemmeno in faccia, perché a te ti ho già pesato, non mi piace proprio per niente, gli ho detto, o Marco. Questo è deficiente, no? Era appena arrivato, non aveva portato nemmeno i mobili ancora nella casa che si è preso in affitto qui di fronte dove abito io, e già voleva dettare legge a questo deficiente, non è mai. Ah, aspetta, ti volevo chiedere una cosa Giulio, a proposito di quella radio Galena, ma era quella famosa radio, quel dispositivo che ha attaccato l'antenna TV, attaccato l'antenna baracchino, generava quel famoso disturbo sui canali TV, con cui avevi, diciamo, fatto capire a qualcuno qualcosa, diciamo, gli hai chiarito le idee. Cerca di ricordare. No, quella lì era un ricevitore a reazione. Quello era un ricevitore a reazione. Quando abitavo nell'altra casa, che allora ero tra l'altro in affitto, abitavo in una palazzina con quattro appartamenti, di cui uno era il mio, no? Dove abitavo io. E io avevo l'antenna del baracchino e anche della televisione, con un palo attaccato alla ringhiera del fogliolo. Perché? Perché l'antenna TV non funzionava bene, assolutamente. Tu pensa che allora c'era solamente primo, secondo canale, non c'era nemmeno il terzo canale, immaginati un po', ancora. Questi, anche quando non c'ero, dicevano che io mi disturbavo la televisione. E dicevo che sono a casa, sono tutto il giorno lavorando. Beh, un bel giorno mi capita tra le mani una rivista, ed era un ricevitore a reazioni. In realtà un ricevitore a reazioni non è altro che un ricevitore e nel contempo è anche trasmettitore, trasmette anche, furie a non finire. Ho preso io, ho messo mano al saldatore e ho costruito questa radiolina, questo ricevitore qua. Faccio questo ricevitore, lo provo e ho visto che era un disastro. Non solo di rovinare la televisione, ma nemmeno la radio si sentiva più, perché mandava tante di quelle spurie che non era possibile. Da che arrivo al bollino delle ferie, me ne vado in ferie, chiudo tutti, ho fatto sapere a tutti che eravamo in ferie, date un'occhiata alla casa per cortesia, voi del palazzo, che io non ci sono, sono in ferie con la famiglia. E sono rientrato dopo una settimana e gli ho lasciato il ricevitore acceso, gli ho lasciato, non hanno visto la televisione per tutta la settimana intera. Proprio quando poi sono ritornato, mi hanno chiesto anche scusa, perché pensavo, dice, pensavamo che era, dice, la tua, tu col baracchino che disturbava il televisore, io. Ma non hai visto che io ero figlio? Sì, sì, è vero, adesso ce ne siamo convinti che non sei tu che disturbi, perché sei il figlio, non c'è nessuno a casa. Per dirti, ma quante cretina la gente, io gli ho fatto questa richiesta, dal giorno non disturbavo più la televisione, Marco. Avanti, di Giotta. Sì, guarda, se le vuoi vedere, anzi comprare addirittura le radiocalena, sono in vendita dei modelli molto, molto belli, fatti in stile anni, neanche anni 20, forse qualcosa prima, e addirittura le hanno anche esaurite sul modello. Sto guardando su Radio Surplus Elettronica, e sono proprio, c'hanno la terra e il coso per l'antenna, c'hanno anche quelle bombine a nero d'api e ci sono anche un rivelatore di quello chiamato baffo di gatto, sicuramente sottovuoto, quindi costa quant'era? 15 euro solo la bobina ovviamente. Anche come soprammobile, tranne un soprammobile che funzionerebbe, forse. Sì, già sa, sono belle, ma anche io mi sento anch'io quelle. No, io l'avevo costruita addirittura, l'antenna l'avevo costruita su un pezzo di tubo di plastica da 40 mm di diametro, l'avevo costruita, avevo fatto questa bobina, l'ho fatto un diodo, avevo messo e poi avevo un condensatore, ce l'ho sempre, un condensatore variabile di quelli a lamelle, due bocchettoni, uno per la terra e uno per l'antenna, ci avevo messo con lo spinotto, poi attaccavo l'antenna di terra, l'antenna e il filo di terra. Il filo di terra inizialmente l'avevo provato attaccato al rubinetto dell'acqua a casa, allora non abitavo qua in questa casa, abitavo nell'altra casa e l'avevo, tanto è vero, mi ricordo che una sera, una domenica sera, siccome io ho sempre seguito il calcio, alla radio c'erano le partite e ed era mancata la corrente elettrica e io avevo affrontato la partita con questo, con questa radiocamera che non era naturalmente diventata, lo sappiamo. Però poi costruendoci un piccolo amplificatorino, funzionava tranquillamente come la radio normale, con un volume alto o altissimo come la radio normale. Però ripeto, ormai, siccome questo qui era in AM, questa radiocamera, ormai non c'era più niente, allora l'ho smontata e l'avevo messa dentro una scatolina di 7x10, una cosa del genere, di grandezza, è alta 4 cm più o meno, in alluminio, l'avevo chiusa lì dentro, mentre la bobina era fuori, sopra la scatolina, no? E funzionava per la meraviglia. Però poi mi ricordo, quando mi sono trasferito qua, lo utilizzavo anche con l'antenna del baracchino e si sentiva che era una meraviglia. Anzi, con un volume ancora più alto. La cuffia era una cuffia da 2000 ohm, era di quelle cuffie molto antiche di una volta che usavano le radiocamere che hanno i padiglioni in macchinista, che c'erano ancora, sono due padiglioni in macchinista, e ce ne ho ancora tra l'altro, perché ci vuole una cuffia che sia ad altissima impedenza, perché se metti una cuffia a 8 ohm ad esempio non si sente niente, non ce la fa. Ecco, tutto lì ho già qua. Sì, sono molto belle, comunque, anche perché sono fatte in legno, poi, tutta la cosa. Niente. Va bene, io ho visto l'orario, sono quasi le 8:05, quindi me ne scappo via a cena. Grazie per il QSO, buona serata a tutti. A presto, risentirci più o meno su questa, come si dice, su questa, insomma, questi orari, dai, tanto oramai le giornate diminuiscono, quindi forse c'è anche più un pochino più di traffico, si spera. Ok, ancora buona serata a tutti e alle prossime me ne scappo a cena. Ok, ciao Gianfra, grazie a te per la chiacchieratina, dai, è stato un piacere, così almeno abbiamo passato un'oretta, un'ora e mezzo, dai, anche forse anche due ore, chiacchierando al baracchino, dopo tanto tempo, tanti giorni che era disattivo questa radio qua, disattivo nel senso che non c'era nessuno. Bene, bene, di nuovo ti saluto, ciao Fra, le prossime, dai, fatti sentire. Avanti Marco. Eia. Ciao Gianfranco, buona serata, buon tutto, grazie delle due chiacchiere, dai, alla prossima. Mi Giulio, se vuoi cominciare a dormire male, il 5G sarà su tre frequenze in Italia, dovrebbe essere. Una, vabbè, intorno ai 700 MHz e lì, vabbè, poco male. Una sarà intorno ai 3000, dico intorno perché ti dico la frequenza media, 3700 MHz, cioè 3,7 giga, l'altra sarà sui 27 GHz, 27 GHz, cioè 27.000 MHz, quella ti cuoce altro che forno a microonde, occhio. Un po' altine sono, io certo brutto avere il ripetitore a fianco lì, ma non lo so. Lo so, purtroppo è così. Va bene, dai Marco, che nel frattempo che tu stavi parlando è arrivata la chiamata dalla parte bassa della casa per la cena. Ok, ci sentiamo, ciao Marco, fatti sentire, la sera io già sono sempre a casa, per cui ho fatto tante chiamate, faccio, ma non, alle volte non sento nessuno. Va bene, ci sentiamo, ciao Marco, ciao Tony, grazie anche a te per la chiacchierata, le prossime, dai. Ciao ancora Gianfranco se sia all'ascolto, e ciao Luigi se sia ancora all'ascolto. Saluto gli altri, ti chiudo anch'io, dai, ciao, vai Marco, ascolto fino a lì, poi chiudo. Ehi a Giulio, non so se ieri stavi ascoltando, ma per il periodo c'era una propagazione strepitosa ieri, infatti qualche chiamata, qualche collegamento l'ho fatto con l'Italia, poi c'era di tutto e di più, mezza Europa c'era e anche oltre. Va bene, ciao Giulio, buona serata, buon tutto, ci sentiamo nel prossimo, ok? Ciao, buona cena. Ok, ciao Marco, alle prossime, ciao. Pomponio, sei rientrato?